America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da Las Vegas. Mario Platero, come vi ho detto ieri, sono al CES, Consumer Electronic Show, la più grande fiera del mondo per prodotti al consumo elettronici. Ecco, devo dire, è come essere un po' nel negozio dei balocchi, perché dovunque ci si gira si trovano delle cose straordinarie. Pensate che ho visto ieri mattina un piccolo carro armato, proprio la dimensione del carro armato, il quale gira con un video per casa e proietta delle immagini, e questo consente per esempio ai genitori di poter vedere che cosa sta succedendo in quel momento in casa, oppure di poter controllare che dentro casa non ci siano dei ladri o non ci siano dei rischi o dei pericoli. Questo piccolo carro armato è anche disponibile per le forze armate, pensate, per l'esercito, è veramente minuscolo, perché lo si manda in esplorazione per cercare di capire se ci sono per esempio delle bombe che stanno per esplodere, o dei prodotti chimici, delle armi chimiche e così via, così via. Ecco, e qualcuno di voi mi chiedeva, ma in questo contesto di 150.000 persone che sono venute qui, migliaia di espositori, ma e gli italiani? Ci sono gli italiani? Beh, ecco, devo dire, l'italiano l'ho trovato, perché ieri c'è stata una conferenza stampa di un gruppo italiano, una piccola azienda italiana, uno startup italiano, che mi risulta essere l'unico presente qua, non ce n'è altri. E sono qui con i fondatori di questo startup, con Manuel Zannella e con Massimiliano Bertolini. Manuel, voi avete dei prodotti, me li racconti? Cominciamo dall'I'm Here, che è quello che avete presentato ieri. I'm Here è un tracker GPS che nasce dalla joint venture di AIM e Zero Mobile. AIM è la società che ha sviluppato AIM Watch, mentre Zero Mobile è un operatore di telefonia mobile. AIM Here, come dicevo, è un tracker GPS. È un operatore di telefonia mobile che avete creato voi comunque, sì, diciamo che voi sfruttate. Sì, un operatore di telefonia mobile rivolto a chi viaggia all'estero e permette di risparmiare appunto sul roaming internazionale. Ecco, AIM Here invece mi sembra che sia una cosa molto focalizzata sul bambino, sulle famiglie, è così? Beh, l'idea nasce per il bambino, infatti io ho un bambino di 4 anni, quando ho pensato a AIM Here l'ho pensato per il bambino di 4 anni, però l'applicazione di AIM Here è molto più vasta, infatti può essere utilizzata per gli anziani malati di Alzheimer, per gli escursionisti in montagna, per localizzare un'autovettura, per la bicicletta. E io la localizzo dove? Sul mio iPhone? Cioè come funziona? Sì, se io l'AIM Here lo metto addosso a un bambino, poi il bambino lo posso localizzare sul mio iPhone, sul mio telefono. Quindi AIM Here manda un segnale, questo segnale... Allora, l'AIM Here ha un modulo GPS e GSM che trasmette la posizione attraverso la SIM Zero Mobile. La SIM Zero Mobile è collegata al nostro cloud e il nostro cloud visualizza su una mappa di Google la posizione dell'AIM Here. E poi avete annunciato anche la nuova generazione di AIM Watch. Ecco, che cos'è AIM Watch? Sì, beh, AIM Watch è il primo smartwatch al mondo. Quest'anno abbiamo presentato AIM Droid 2, che è il nuovo sistema operativo. Quindi siamo partiti da Android, l'abbiamo customizzato completamente. Con AIM Droid 2 potrò utilizzare il mio AIM Watch dovunque sono, a qualsiasi età. Potrò ricevere mail, potrò ricevere chiamate, far telefonate, potrò ricevere notifiche da Facebook, Twitter, Instagram, quindi diciamo che avrò tutta la mia vita al polso. Quindi è come un iPhone che però ha la dimensione di un orologio, questa è la storia. Infatti posso avere tutto il mio mondo al polso, quindi sia dal manager per le riunioni, sia il ragazzino per giocare, a qualsiasi persona potrà utilizzare AIM Watch. Ecco Manuel, come nasce la vostra storia? Com'è che in Italia, dove devo dire mi sembra piuttosto difficile, visto che voi siete i soli qua, riuscite a mettervi insieme a creare uno startup in prodotti elettronici? Questa storia nasce da una grande amicizia. Io e Massimiliano ci conosciamo da 18 anni. Massimiliano è nato nel paese di mia moglie, a Gambugliano, un paesino vicino a Vicenza. Ci siamo frequentati per moltissimi anni, fino a che un giorno abbiamo deciso di fare del business assieme, quindi da un'idea abbiamo creato un'azienda. Ecco, per fare un'operazione di questo genere ci vogliono ovviamente finanziamenti, voi li avete trovati e avete trovato anche una struttura manageriale, perché si è aggiunto a voi qualcuno che ha dato struttura allo startup, cioè Edoardo Lombardi, che è il presidente della vostra società. Ecco, buonasera Lombardi. Buonasera. Allora, com'è stato entrare in una startup? Lei che ha guidato aziende importanti, guida aziende importanti. Beh, diciamo che è stato sicuramente un ritorno al passato con tutte le motivazioni e le soddisfazioni che ci portiamo con noi dalla età delle grandi avventure. il mio obiettivo è stato quello di dare una struttura a questa società, ma proteggendo in modo totale e diciamo permanente la creatività e la libertà di azione che i due fondatori hanno seguito e che è stato determinante questo insieme di cose per il successo raggiunto. Ecco, parliamo di numeri, dove siete in termini di vendita a questo punto? Finora abbiamo venduto sostanzialmente via online e abbiamo consegnato già 30.000 orologi. Abbiamo iniziato anche la distribuzione di una parte, diciamo, di campionatura per gli oltre 70 distributori che abbiamo già individuato e con i quali siamo in contatto nel mondo, e questo aggiungerà nei prossimi pochi mesi altri 50.000 pezzi. Il totale quindi di 80.000 pezzi dovrebbe essere raggiunto, ci auguriamo, per la fine di giugno, e potremmo avere a quel punto fatto un fatturato di circa 20-24 milioni di euro. Ecco, tutto questo non sarebbe successo se lei, Emanuel, non avesse trovato poi un finanziatore. Chi è il finanziatore? Il finanziatore è Ennio Doris di Banca Mediolanum. Io l'ho conosciuto nel 2007 quando sono entrato appunto in Banca Mediolanum. Io avevo un'idea che era quella di creare un operatore di telefonia mobile low cost per l'estero, Izalo Mobile, e avevo bisogno di finanziamenti per realizzare questa idea. Sono entrato in Banca Mediolanum, ho fatto di tutto per incontrarlo, sono andato a Tombolo, l'ho incontrato. E come l'ha incontrato? Ma l'ho incontrato, c'era un contest in Banca Mediolanum, bisognava raggiungere determinati numeri, io ho fatto di tutto per raggiungere questi numeri, li ho raggiunti e Doris mi ha premiato per questi numeri. Quando ho presentato l'idea, gli è piaciuta e ha creduto in questa idea e l'ha finanziata. Ci ha creduto al punto tale che Ennio Doris è persino venuto qui a Las Vegas e quindi si è preso un aereo, 25 ore di volo fra una cosa e l'altra, per partecipare a questo vostro momento di presentazione. Quindi non c'è soltanto un appoggio finanziario, ma c'è un appoggio morale. Ma Doris, ecco, abbiamo anche Ennio Doris al microfono, siamo tutti qui riuniti, ma ne valeva la pena di prendere un aereo per venire fino a Las Vegas? In fondo questa cosa è una piccolissima parte di quello che è la sua attività finanziaria, economica, di quella che è la sua fortuna. È vero che è una piccolissima parte, ma oggi, domani io credo che diventerà una grande parte. Bastava essere qua presente a Las Vegas e vedere la folla che gremiva lo stand di I'm Watch per rendersi conto di che cosa sta nascendo. Allora, bene, io ho puntato giusto, ho puntato sull'uomo più che sull'innovazione, sugli uomini, nel senso che di fronte a un ragazzo che per espormi un'idea diventa family banker, fa una valanga di clienti e poi dice: guarda che io sono qua non per fare questo lavoro, perché ho questa idea imprenditoriale, al di là dell'idea non gli si poteva dire di no. Però due domande. Una, qui siete l'unica azienda italiana presente, come mai? Ma insomma è un po' triste che ci, per carità, bravissimi, però forse sarebbe stato meglio se a nome dell'Italia ce ne fossero state altre, o sbaglio? Sì, io penso che ci sarà qualche altra piccola realtà italiana qua presente, ma sicuramente una presenza assolutamente trascurabile in un settore che sta cambiando il mondo e che sta rivoluzionando il mondo. E questo è triste dirlo, si vede come l'Italia purtroppo è assente. Mi spiace molto questo. Ecco, ma domanda, ci ha detto prima Manuel che ha suonato il campanello, è venuto da lei a Tombolo e lei gli ha firmato un assegno. Ma c'è molta gente che ci ascolta, quindi faccia attenzione, ma quindi scusi, diamo un messaggio che basta suonare il campanello e c'è un investimento? No, non è così semplice. Prima di tutto mi sono trovato di fronte a un ragazzo che, al di là dell'idea, ha dimostrato di avere dei numeri straordinari, perché è entrato in un settore che non era il suo e ha fatto un successo strepitoso, il che vuol dire intelligenza, ma determinazione e capacità di lavoro enorme. Questo è quello che mi ha convinto. Poi naturalmente anche l'idea mi è piaciuta. Naturalmente, presa quell'idea, abbiamo fatto un piano finanziario con dei miei collaboratori esperti e abbiamo visto che il gioco valeva la candela, insomma il rischio rispetto al capitale valeva la candela. Quanto spesso succede questo in Italia? E io credo molto raramente, succede quasi mai. Nel nostro caso ormai è successo già 3 volte, perché prima ho finanziato Zero Mobile, poi Lame Watch, quando è entrato in gioco Massimiliano Bertolini, che hanno deciso di trasformare un oggetto stupido in intelligente, e poi Lame Here, e tutte queste avventure io le ho finanziate. Poi ce n'è un'altra nel cassetto che riguarda Zero Wine, ma quella è ancora nel cassetto, vedremo. E cioè, ce lo dica. È la possibilità di bere del vino, il vino di qualsiasi vino italiano o straniero, il Montepulciano, il Chianti, eccetera, a cui dopo che è stato prodotto, quindi con l'alcol, viene tolto l'alcol, in maniera da poterlo bere e poter guidare. O chi è di religione che non può bere alcol può bere vino senza alcol, però quella è nel cassetto, diciamo, prenderà piede un po' più avanti. Beh, io sono veramente felice di aver fatto queste 25 ore di viaggio per essere qua, perché al di là del successo di Aim Watch ho potuto rendermi conto di come l'Italia sia carente da questo punto di vista in un settore che sta crescendo, che sta rivoluzionando il mondo. Io spero non solo che chi ha idee cerchi di portarli avanti, ma che altri, banche, aziende, investitori, sentendo questo e se gli si suona il campanello, che un po' facciano come me e quindi insieme si venga con una presenza molto più nutrita nei prossimi anni qua a Las Vegas. Ci sarebbero molti altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla costa americana. Seguiteci su Twitter, anzi twittate @MarioPlatero, perché stiamo facendo il nostro esperimento di social radio. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, siamo a Las Vegas, la città del vizio, la città del peccato, una città mitica. Difficile trovare una canzone adatta a questa città, eppure c'è. Viva Las Vegas, un classico di Elvis Presley. Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. Da Las Vegas è tutto, Mario Potero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!